State ascoltando Un Divago su Radio Alma Bruxelles. In questa seconda parte siamo con Maurizio Spatola, che ci parla del fratello Adriano, figura centrale della neoavanguardia del dopoguerra. Nato nel 1941 e morto nel 1988, Adriano Spatola, parte del gruppo 63, è personaggio iperattivo di levatura internazionale che ha segnato la letteratura italiana. Noi abbiamo fatto su On Divago appunto degli interventi riguardanti in On Divago Doc le avanguardie storiche, come tu avrai un po' sentito, e poi soprattutto le neoavanguardie, quindi l'esperienza che tu hai seguito in prima persona con tuo fratello Adriano Spatola, quindi nell'ambito anche di quelle edizioni che sono diventate anche un po' così, esempio di un certo modo di fare poesia, le edizioni Geiger, hai seguito questa esperienza delle neoavanguardie. Ah sì, certo. Senti, la tua richiesta di fare una chiacchierata viene giusto a tempo, nel momento giusto, perché è appena la rivista Testuale, che è una rivista di critica letteraria abbastanza importante, ha appena pubblicato un mio lungo articolo o un breve saggio sulle ragioni profonde, anche etiche, della poetica di mio fratello Adriano. Sì. E come alcuni critici più attenti, ad esempio Luciano Anceschi e Guido Guglielmi, avevano già scritto immediatamente dopo la morte di Adriano, ma anche in precedenza per la verità, Adriano si colloca sicuramente, adesso che cominciano finalmente a riconoscerlo anche a altri critici nei tempi più recenti, si può tranquillamente inserire fra i maggiori poeti del secondo Novecento. Come poeta però cosiddetto lineare, cioè un poeta che scriveva in versi, anche se non regolari, però scritti con un rigore, e attento agli stilemi anche dei classici, arrivando fino a usare anche a rispettare la metrica in certi casi. Tanto è vero che lui, in un verso famoso di una sua poesia, scrive: eccomi qui assiso a battere spondei. Uh-huh. Quindi il suo modo di fare poesia era completo, nel senso che andava sia dai metri più tradizionali alle sperimentazioni. No, anche se i versi erano scritti chiaramente in modo irregolare, ma solo in apparenza, c'era uh-huh. dietro una un studio. Uno studio e soprattutto una pignoleria addirittura uh-huh. che ha segnato tutta la sua vita anche però vorrei un po' spiegare come uh-huh. perché lui a un certo punto ha anche preso la strada della poesia concreta, uh-huh. della poesia visuale, poi della poesia sonora sì. in seguito. Dunque, quando Adriano comincia a scrivere sia poesia sia testi teorici e critici per le riviste, prima il Mulino e poi il Verri sì. di Bologna, aveva 20 anni o poco più. Uh-huh. E manifestava già un'attenzione particolare al surrealismo e al dadaismo uh-huh. in maniera soprattutto al surrealismo, insomma. E comunque lui comincia a inserirsi negli ambienti letterari italiani che erano appena stati un po' messi in terremotati, diciamo, prima uh-huh. dalla pubblicazione dell'antologia dei Novissimi uh-huh. nel 1961 e poi subito dopo dalla nascita del gruppo 63. Uh-huh. Adriano partecipa tra l'altro a 22 anni al primo convegno di Palermo del gruppo 63, quello di fondazione del movimento, uh-huh. ed entra così in contatto non solo epistolare, anche con i maggiori protagonisti di allora, cioè anche loro tutti abbastanza giovani, 30-40 sì. anni insomma, mentre cioè da Balletta Sanguinetti a Pagliarani, a Antonio Porta, eccetera, a Giuliani e poi il più giovane di tutti, che allora era Nanni Balestrini, uh-huh. e sviluppa immediatamente un tipo di ricerca autonoma che lo porta anche a dissentire con questi così che già avevano già un nome. Poi dietro il gruppo 73 c'erano personaggi come Umberto Eco, uh-huh. e, che era un po' il teorico del movimento. E tanto è vero che nel 62 Adriano pubblica una sua rivistina che si chiama Babilu, alla quale io non ho partecipato, avevo solo 16 anni, ma ne ho seguito comunque, ho potuto seguirne le fasi di realizzazione, di redazione, gli altri protagonisti che erano allora il giovane Giorgio Celli e la giovanissima Patrizia Vicinelli, Carlo Marcello Conti, che poi è diventato un editore a sua volta, che vive da anni a Udine, e poi alcuni altri giovani bolognesi che sono tuttora così ancora attenti a queste cose, un po' nostalgici, perché non hanno poi fatto un granché loro dopo. Ma e qui si può vedere dal titolo della rivista, che si chiamava Bab Ilu, come l'Adriano ponesse proprio attenzione alle origini lontane anche della frammentazione dei linguaggi, eccetera, perché Babilo viene da Babilonia, ovviamente, quindi ricorda l'episodio della Torre di Babele, della confusione delle lingue. E si pensa che in seguito, quando avrà il suo interesse per la poesia visuale, lo porterà a dedicarsi soprattutto alla poesia concreta, che chiamerà le prime sue opere in questo senso zeroglifici, con chiara derivazione dai geroglifici. E c'è quindi poi nelle sue prime poesie spesso si fa riferimento ai riti dell'antico Egitto, al rito dei morti, e quindi c'è un continuo richiamo al passato e anche a questa presenza sciamanica del poeta nella società. Lui spesso parlerà del poeta come sciamano. In questo poi, riprendendo in pieno André Breton nel primo manifesto del surrealismo, quando Adriano comincia a interessarsi di poesia visuale, è sull'onda anche di quello che veniva dal movimento Fluxus americano e poi delle prime esperienze di poesia concreta che erano state si erano verificate verso la fine degli anni 50, soprattutto in Brasile e poi contemporaneamente in Europa, in Svizzera e in Germania. Lui sarà molto vicino a un poeta tedesco che si chiama Franz Mohn, che era arrivato un po' forse fra i primi alla frammentazione, alla rottura non solo della parola ma anche del singolo fonema, cioè del segno alfabetico. E questo sarà poi quello che Adriano farà, ma non perché fosse interessato a una poesia di tipo pittorico, decorativo, insomma, ma perché dalla destrutturazione del linguaggio bisognava partire per rifondare un linguaggio nuovo, insomma, un linguaggio inedito e anche come lui diceva, anarchicamente garantito, cioè in maniera che si potesse ricominciare da capo, da zero, insomma. Io di quel periodo ho un sacco di ricordi, ovviamente, sia dalla nascita di questa rivista Babilo, che in pratica aveva per redazione l'Osteria di Via dei Poeti a Bologna, che era un'osteria nel centro storico, Via dei Poeti è una traversa di Via Castiglione, che è una delle vie medievali più meglio conservate, con i suoi portici e le sue strettoie. L'osteria non era lontana dal liceo Galvani, il liceo classico che sia lui che io poi che abbiamo frequentato, io 5 anni dopo di lui, perché sono 5 anni più giovane. Io ero spesso in quell'osteria, eseguivo, naturalmente stando un po' in disparte, i discorsi a volte un po' ebri, non so se più di... dei vini bevuti che ho più ebbri per le teorie, poesie dei simbolisti francesi e dei surrealisti o dei che leggevano, insomma, si discutevano da Rimbaud di Rimbaud, Baudelaire, come di Ezra Pound o di Palazzeschi o di, dei futuristi italiani, e anche delle nuove forme d'arte, insomma. Si era anche agli albori anche della pop art, eccetera, quindi venivano anche segnali non solo dalla letteratura, dalla poesia, ma anche dall'arte, che si stava rinnovando in maniera molto molto trasgressiva e anche aggressiva in alcuni casi. E quindi i miei ricordi sono proprio legati a quegli ambienti letterari di scambio, di crescita, che poi tu hai vissuto anche poi direttamente poi con le riviste più avanti, poi diventando poi editore tu stesso di... Sono poi coinvolto anch'io in questa cosa, l'entusiasmo mi ha contagiato, e poi a 20 anni, quando io avevo 20 anni, Adriano 25, abbiamo poi fondato questa casa editrice, che per una ventina d'anni circa ha funzionato in maniera molto artigianale. Molti libri all'inizio li facevamo a mano, quindi che sono le edizioni Geiger, appunto 300 copie, sì. E che sono partite come prima sviluppo da dove, le edizioni Geiger? Da Bologna? A Bologna è stata le prime idee, l'abbiamo fondata a Torino, anche la prima antologia l'abbiamo realizzata a Torino, anche se l'idea era stata sviluppata a Bologna, a Bologna, sì. E Parma, direi. Ma poi la casa editrice ebbe sempre fino alla fine degli anni 70 la sua sede a Torino, a casa mia in pratica. Sì. Fino al 73-74 abbiamo fatto i libri a Torino, poi Adriano si era trasferito nel frattempo con Giulia Nicolai in questo posto isolato per il mulino di Balzano, sì. Nella campagna parmensa alle pendici dell'Appennino, lungo il fiume Enza, che fu poi un punto di riferimento costante fino alla morte di Adriano, perché si è trasferito dal mulino di Balzano, che era proprio sulle rive dell'Enza, in un paese che si chiama San Polo Denza, e poi per andarsi infine ad approdare a Sant'Ilario Denza, dopo poi nell'88 purtroppo è morto. E tu questo mulino questo luogo l'avrai visitato? No, ci ho vissuto. Ci hai vissuto, io sì. Io andavo avanti e indietro per venire da Torino, perché giovanissimo, ero già sposato, avevo due figli, eccetera. Poi io ero l'unico di tutto il gruppo, dei tre fratelli, che aveva un lavoro fisso. No. È l'unico produttivo in una famiglia di... No, è l'unico produttivo. Sì, chiaramente, sì, produttivo a livello, economico. Un ufficio, ecco, per dire. nemmeno un altro fratello, Tiziano, che era più giovane di noi, anche a 5 anni meno di me, e che divenne però un aiutante molto importante per stampare libri in casa. Ho comprato una piccola offset, e facevamo quindi la composizione e stampa in casa, e solo la legatura dei libri veniva data all'esterno. E infatti poi su questa esperienza è stato scritto poi recentemente anche un libro sul mulino di Bazzani. Sì, anche con un mio intervento in cui ricordavo appunto quello che c'era dietro le quinte di questo lavoro che a molti sembrava un lavoro così fatto per cercare di avere una visibilità, essenzialmente lavoravamo per dare occasione a molti giovani autori di avere almeno un'opera prima, insomma. Beh, sì, infatti questa cosa che per così dire mi ha anche impressionato dell'esperienza di tuo fratello Adriano, è che quando si racconta dell'esperienza del mulino di Bazzano, che abbia dato tantissimo ascolto a giovani autori, o comunque l'apertura verso l'esterno era veramente totale, nel senso, si racconta che avesse continui scambi epistolari, telefonate, insomma. Telefonate no, perché non c'era il telefono. Ah, non c'era il telefono. Andare al posto telefonico pubblico, che era naturalmente in un bar, dove così, ogni volta che si andava a telefonare si poteva bere un bicchiere. Era un bar che era un chilometro di distanza, quindi erano scambi epistolari, allora. A piedi, sì, ma funzionavano meglio le poste di allora che quelle elettroniche, sì. Cioè, anche se arrivavano una settimana dopo, però insomma sì, era sufficiente. I ritmi erano più lenti, più tranquilli, era la slow poetry. Beh, però era attivissimo comunque, quindi probabilmente erano lenti ma continui, quindi in realtà molto... Circa 250 titoli dopo tutto in quegli anni, quindi ci siamo dati da fare, insomma. Adriano era un po', come dire, il motore. Beh, chiaro. Di tutti quei, e poi anche per via dei suoi contatti, eccetera, ma senza la parte amministrativa e della diffusione delle vendite di cui mi occupavo io a Torino, e la parte più tecnica, più di laboratorio di cui si occupava Tiziano, le edizioni non avrebbero avuto. Beh, certo, ci voleva un sostegno. Ma in quali principali, diciamo, moventi, obiettivi vedevi in tuo fratello? Cioè, principalmente il discorso del trasporto, del rapporto così fisico con la poesia, oppure c'erano degli obiettivi più specifici, tipo cioè smuovere certi temi letterari? Che lui aveva proprio veramente come traguardo quello di capire fino in fondo e farlo capire anche agli altri il vero ruolo del poeta. Non solo verso la società, ma verso se stesso anche, e anche questo lui lo riferiva anche al critico letterario, questo discorso, perché questo discorso di identificazione del ruolo autentico, perché lui, oltre che poeta, era anche critico, ha scritto moltissimi saggi, e anche saggi oppure recensioni, eccetera. Era un bravissimo recensore. E spesso ci confrontavamo per la differenza io facevo il giornalista e scrivevo ovviamente ero costretto a usare un tono più comprensibile, meno per addetti ai lavori, insomma uno stile diverso. Poi oggi vedo che sto scrivendo anch'io in una maniera un po' più letteraria, ma proprio perché adesso ho smesso di fare il giornalista e basta, ma comunque ma abbiamo vissuto insieme tanti momenti di discussione, di cose, perché io almeno una volta al mese andavo al Molino di Bazzano e mi fermavo 2-3 giorni. Quindi hai vissuto quell'atmosfera, la sai benissimo. Sono stato molto spesso, sì, dormivo lì, mangiavo lì, ma più che altro si mangiava, si beveva, ma si lavorava tantissimo. Spesso ci trovavamo all'alba dopo notti estenuanti o di lavoro o di poker, andavamo all'alba a pescare nel fiume lì vicino, poi ci facevamo il fritto di pesciolini. Che bello. Quindi era una vita anche bucolica, tra la neoavanguardia e gli ambienti più... La cosa bella era che Adriano in quegli anni lì, tra la gente del posto, che erano contadini o... Certo. Sì, contadini oppure gente comunque di paese, no? Anzi delle frazioni soprattutto. Lui che girava con tutte le trattorie, i ristoranti della zona, ma lui non aveva la patente, quindi per fortuna di Nicolai che l'aveva la patente e anche la macchina. Questo è un altro particolare interessante che... Non ha mai voluto prendere la patente. Ho provato una volta a insegnargli io a guidare, ma non è il primo scrittore che sento che non ha la patente. Ne potrei citare almeno due. Una è Amélie Nothomb, che è una delle più grandi, vabbè, scrittrici comunque forse più di ambito di consumo. Un altro che sentì che non aveva la patente a suo tempo era Tiziano Scarpa. Comunque volevo dire una cosa importante, che tra la metà degli anni 60 e la fine degli anni 60, appunto, che Adriano quasi proprio dove percorso diverse strade un po' anche tortuose, eccetera, si avvia verso quello che diventerà poi il progetto di tutta la sua vita, cioè quello della poesia totale, dalla quale anche tu hai preso spunto. Certamente, quel libro spunto sì, però la definizione chiaramente, che poi tuo fratello vede poi come una tendenza anche verso, indica proprio una direzione, un'apertura verso un obiettivo, no? Indica l'obiettivo, non la vede come raggiunta. No, anzi, Giulio Nicolai in un suo libro ha descritto Adriano in un modo molto, molto particolare, cioè lo ha descritto, lo vedeva, comunque lo ha visto così dopo la sua scomparsa, come una specie di Sisifo che continuava a spingere un masso su, su per la cima, perché una volta che l'avesse spinto oltre quella cima avrebbe realizzato il suo sogno, avrebbe trovato il vero significato della poesia, però il masso gli ritornava sempre indietro. Questa era la condanna di Sisifo, insomma, quindi. Comunque a questa cosa di poesia totale lui è arrivato anche attraverso quella esperienza del cosiddetto parasurrealismo, che era in pratica fondata insieme con Giorgio Celli, Corrado Costa e Claudio Parmigiani e altri, quando lavorava alla rivista Male Bolge, quando faceva la rivista Male Bolge a Reggio Emilia, rivista che era in pratica appoggiata dall'editore Shea Wheeler e anche da Antonio Porta, che aveva un suo ruolo importante negli ambienti intellettuali e anche editoriali. E questo parasurrealismo, come ha scritto anche Giorgio Celli, ma come poi aveva spiegato bene Adriano, doveva essere interpretato come una rivisitazione critica del surrealismo, che non era morto, aveva solo esaurito non era morto secondo lui, insomma. Adesso Breton nel 65 era ancora vivo, e poche anni prima aveva scritto l'ultimo manifesto del surrealismo, quello in cui il surrealismo diventa in pratica, cioè viene interpretato in chiave anarchica e non più comunista come era stato prima della guerra, no? I tempi in cui c'era poi Aragon ancora, eccetera. E come Adriano ha vissuto, ha usato questa rivisitazione critica del surrealismo per approdare al suo progetto di poesia totale, e mi interessa molto che oggi ci sia qualcuno che fa una rivisitazione critica della poesia totale per arrivare magari a un nuovo progetto, no? Partendo da quello. Poi l'esperienza di tuo... Questo vedo che magari lo stai facendo tu e con gli altri che collaborano con te. Ma penso che sicuramente l'apporto e l'analisi che tu fai, ma che anche grazie anche ai racconti di Totino hanno portato, sia utilissimo, nel senso che quello che dicevamo anche parlando con alcuni critici, tra l'altro con anche Ermini di Anterno, che comunque diciamo si occupa di qualcosa di un ambiente leggermente diverso, e comunque che si sta ritornando a forme antecedenti alla neoavanguardia, e quindi c'è bisogno secondo me di riportare l'attenzione verso quello e poi trovare chiaramente soluzioni nuove che ancora probabilmente non ci sono. Comunque c'è una cosa importante che a proposito della poesia visuale, che come tu sai e come anche su cui anche tanti hanno scritto, compreso Arrigo Lartotino, la poesia visuale affonda le sue radici addirittura prima di Cristo, insomma. Beh, certo, nell'antichità, nei calligrammi. Ma durante i poeti alessandrini greci, poi i poeti medievali, con la figurata, i textus in texti, e così via, cercavano ovviamente non una radicalizzazione, una trasformazione radicale del linguaggio, ma avevano funzioni di omaggio al vescovo, erano di ispirazione religiosa sempre, tranne quelle degli alessandrini greci. Poi c'è l'esperienza di questa poesia giocosa, da partire dal Boutelli, Rabelais o dei poeti barocchi. Ma tutto questo non aveva comunque un significato non rivoluzionario, solo in parte trasgressivo, se vuoi. Adriano poi vede la nascita della poesia visuale come momento di rottura. Lui lo vede addirittura, lo scrive nel suo saggio Verso la poesia totale, nella poesia Les voyelles di Rimbaud, quella delle vocali, no? In cui è una poesia in cui non c'è dove la A è nera, la E è bianca, la E è rossa, la O è blu e la U è verde, no? Però sono così, lui le vede così e spiega anche perché le vede così, ma è una cosa virtuale, cioè non ci sono i colori in questa poesia, sono versi. E però è questo che dà un po' forse l'inizio, sempre secondo mio fratello, a quello che poi porterà pochi decenni dopo alcune idee di Mallarmé, poi ai calligrammi di Apollinaire, e poi al parolisberismo futurista, e al cut-up dadaista. Sì, tuo fratello ricostruisce un po' la storia della, brevemente nell'evoluzione di queste pratiche. Poi quello che arriva come movimento fluxus, come una frustata, quindi a fine anni 50, primi anni 60, è questo concetto ben espresso da Dick Higgins in quell'epoca di intermedia, che è quello su cui si baserà poi tutta l'attività di Geiger, di Tony Geiger, che noi baseremo, questo fui io un po' a inventarlo, l'ho scritto io in una introduzione a una delle antologie, una sperimentazione permanente, in cui sempre l'artista, il poeta, eccetera, coltiva sempre la terra del vicino. Nel senso che c'è questa contaminazione fra le varie linguaggi espressivi delle varie forme d'arte, no? Cioè la poesia, la pittura, la scultura, la musica, il teatro e poi fino all'architettura e al design. Abbiamo ascoltato l'intervista a Maurizio Spatola, di cui troverete sul sito di Ondivago anche il link con gli scritti critici e il suo archivio sulla neoavanguardia. Poesia Totale è il nome della rassegna di poesie e arte contemporanea che si svolge a Torino, liberamente ispirata al concetto di Adriano Spatola. Propone in città eventi relativi alla poesia e all'arte contemporanea. Il progetto parte nel 2004 e adesso partecipano poeti e critici, poeti come Arrigo Loratotino, quindi poeti che con Spatola hanno lavorato, e giovani emergenti. È previsto un grande evento nel corso della settimana del Salone del Libro, venerdì 14, di cui vi daremo comunicazione. Il sito di Poesia Totale è myspace.com/poesiatotale. Il progetto Poesia Totale è un progetto indipendente, coordinato da chi vi parla, che comprende anche una collana editoriale e trasversale dal titolo Poesia Totale Collection. La collana sarà lanciata al Salone del Libro di Torino e comprenderà nel suo sviluppo raccolte di poesia e saggi. Finisce così la settima puntata di Ondivago. Vi invitiamo a raggiungerci nei meandri dell'etere. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Pont avec la collaboration de Daniela Terrier et Pietro Pedone, mixage Alessandro Gianotti. Production du Club du Livre de Bruxelles et Poésie à Total et de Turin. Info ondivago.blogspot.com, email ondivagoradio@gmail.com.